8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Cacco, ci sei, cacco, mi sozzo. Ma come mai? Aspetta, vedere. Prova a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aspetta un po'. Non ci avrei messo anche la cosa per la vuota, se fosse quella per la 27, no? Ok, adesso stiamo pompando. No, dai, devo staccare una cosa, devo staccare, non mi funziona così, non funziona. Quindi devi attaccare una prezza. Aspetta, che accordo. Si è prospettato un altro scenario che io ne sono dovuto conoscere il seguito, cioè che è stata anche lei che si è fatta una domanda e ha detto io ora, io ora detto, quasi 150. Aspetta due minuti che cambio una cosa. Cambia, non c'è problema. Adesso poi facciamo scalare la valvola che non arrivi, no? E non usavo quel taglieccio. Ecco. Avanti. Buonasera, Michele da questa. Buonasera, Michele. Alessio, da questa parte siamo a Franco di Sorso. Cosa, Alessio? L'ho compito Alessio, poi cosa? Certo, ben ascoltato. Alessio da questa parte, insieme a Franco di Sorso. Positivo, anche a Franco, buonasera, ho sentito che ha fatto bianco, ho sentito un po' di sbrattere, vi ho cercato, Michele in barra mobile, quella questa. Scappa Michele, mi hai ascoltato, 9.10 qua, Radio 5, dove sei? Qua in via Milano, sì. O già in Italia? No, sono nella camionabile direzione Alghi Porto Torres. Ehi, mi sentivi disperato. Caspita. Vabbè che sto usando di lineare a 120 watt di vent'anni fa. Quindi già, almeno già funziona ancora. Quelli vecchi sono i più buoni, Alessio, non preoccuparti. Io ne ho uno di circa 20 anni e funziona lo stesso. Un altro che c'ha sui 18 anni e va bene lo stesso. Non mi dà ancora, sono i condensatori però. Quando raggiungono un certo tipo di età si spaccano i condensatori, è un casino a cambiarli. Perché devo smontarlo tutto. Bello è quello. È positivo. Comunque Alessio, ti devo dire una cosettina, non so se ti offendi, però stai essendo un po' compresso, lo sai? No, non mi offendo, ci mancherebbe. Aspetta, trovo subito il problema. Guarda qua adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco qua, no, io sono un po' per la, non per la perfezione, però deve essere pulita, quando è compressa si sente che si carica, però si sente anche che è compresso, io sono un po' per la perfezione. Io ti sento fa, massimo io ti sento. Non fa niente, già ho abbassato il watt, stavo pilotando lineare a più di 15 per fortuna era compressa. Avanti fa, che ti fa passaggio, ti devo controllo. Sì, con te, ma la radio è strana. Non è 5, capito? Sembra un 4 soffocato, sembra. Evitate che sia scarica, che deve essere il microfono, va bene che non usi quello. Ehi, prova l'altro microfono. Il 24 non è che non sta vendendo. Dovresti uscire forte. E invece no, non sta vendendo quel microfono strano. Sembra mi soffocato. Questo va meglio. Ehi, questo va meglio. Evidentemente c'è la batteria scarica di quel microfono ottavo fratto. Sarete un calamitico che in barra mobile sta andando a Polo Torres. Prima sì erano dei tempi, cosa fai? Sei qua a caricare alleni? Ah, ecco. Allora è conosciuto lì a Cagliari, a Michele Polverone. Scappa. Sì. Vabbè, Michele è andato in pensione, è andato. Niente, ne riconosco tutti quanti quelli lì, li conosco. Qualcuno li ho caricati anche io allini qua. Sì, io me lo ricordo. Vabbè. Noi lì non ci arriviamo. Già arriviamo qua a Sassari. C'è partito bene. Anche qua è così, anche qua. Ogni giorno ci sono, anche qua i rilevatori. E ci fanno grazia a fare due discorsi, dai, tanto per perdere qualche ora. Avanti! Capovello! Sì, a capo. Cazzo, Michele Polverone, già in pensione. Pensavo che nel tuo trasferimento di lavoro si era detto la massa, se invece a quattro pare gli piace più Cagliari, gli piace. E vedete, ha trovato casa lì e si è sistemato lì. No, è qua, Michele, non è là. Sono venuto qua. Ah, capito. Io ho capito da Michele che in pratica Michele Polverone è giù a Cagliari ancora. Quindi in pratica hai trovato a Sassari, allora... Però non ho più sentito in... Però voi siete vissuti in trama, che voi tenete non ha voglia. Sì, con Bazzara lavoravo, esatto. E Michele poi c'era, aspetta come si chiamava quello, lo chiamavano, ultimamente si è fatto male, si è fatto, adesso non lo so, c'è anche lui andato in pensione, che veniva anche a Cagliari, Negro, non me lo so, tutte e due in pensione sono, perché uno si è fatto male, si è fatto, l'altro amico collega di Michele, a quelli li caricavo tutti io qua, lì, all'impianto gomme. E poi quando c'era la polistrada, la HD. 5 segnale, radio 5. Da adesso sprigioniamo un po' di energia. Ingresso di Porto Torres e Porto, Mi arrivi 9.10 e bella radio, super 5. 9.10 anche a me, quando sei attaccato, a voglia. Se sei a Porto, che sei al Porto. Adesso ti ho di fronte in pratica. Perché da casa vedo il Porto io qua. Sono a Carbonazzi Alto, via Carlo Felice, quindi figurati tu se non lo vedo dai notti. Giappa. Va bene, allora vuol dire che sta funzionando. E oggi ritiriamo anche un altro importante che non porti l'attemi, se no te ti pigliano i rumori che ti prendono. Adesso sono vuoto, adesso possono fare tutto quello che vogliono. Giappa, non vive. No, voglio il latte, no, non è mai non prendo la mangi, ma sta tranquillo, perché se non avete latte e quei maglianetti, che vergogna, i maglianetti là fuori, tutti pieni di muffa che ce li mangiamo noi santi, fosse stato lì al porto del promotore, come la, con la finanza avrebbe bloccato tutti i tiri, uno per uno ogni giorno, la roba l'avrei spedita indietro. Penso di controllo, un po' quello che hanno visto, perché li hanno buttati in terra prima di Aletti, quindi lì al porto hanno sentato, hanno visto tutto, capito? E adesso con l'area che controlleranno ogni team che scende, sentato lo controlleranno se c'è carta e guasta e cosa del genere, li portano indietro. E chi ne mangia di quella roba? Io non lo mangio. D'accordo, a dopo, ciao, ci sentiamo, avanti qua. Caffa Michele, dai, ci sentiamo più tardi, se coincide. Mi dà problemi agganciarlo così, mi dà. Prima non riuscivo a uscire per niente, poi l'ho messo, però devo metterlo lontano dalle altre radio. Perché non sono le altre radio? Vabbè, io ce l'ho vicino alla via Isolo, non mica adesso problema, addirittura ce l'ho anche lì attaccato, non li fa nessun rientro, strano, che ti faccia una cosa del genere. Giappa, ascolta Antonio, qual è l'NC? Il numero è, tu non lo sai, no? L'NC? Giappa, per aumentare la modulazione, l'amplificazione. Allora, dove c'è il trasformatore, quello rosso, grande, dove ci sono tre pilini da una parte e due dall'altra, appena appena più giù c'è un trimmer, e quello è l'LC. Hai capito? C'è l'FM500 e se lì c'è addirittura anche il Midland. Capito? Capo, questo è un Midland, però è molto vecchio, è molto molto molto vecchio. Qui ti mando la foto. Faccio WhatsApp, l'ho tolto WhatsApp, non puoi mandarmi nessuna foto, se no già l'avrei visto. Comunque te lo sto dicendo, è proprio sotto il trasformatore, quello grande, in pratica è il modulatore che si chiama quello trasformatore, quello in pratica che alimenta tutto, audio, eccetera eccetera. Guarda che vicino all'integrato audio attaccato allo chassis, quello a pettine, a forma di pettine, quindi lo riconosci subito. C'è il trasformatore, poi c'è quel condensatore da 1000 microfarad 16 volts e ci dovrebbe essere un trimmer lì vicino, quello è l'LC. Capo, non si provo a aprirlo perché questo è un base ed è un Midland, che tu se vai su internet che c'è il computer lì lo vedi, Midland modello 78574. Midland 78574, la voglio lo guarda, cioè perché c'è il computer dall'altra parte, io capito, sono agganciato la linea wifi del locale che c'è di fronte a casa, quello dove va a giocare il d'azzardo. È bianco e c'è la mascherina nera frontale e tutti i tovelli argentati. Bianco non perché simile a quello che c'è a coso, ma la cassa in pratica è beige, così è. No, la cassa è bianca. La cassa è bianca, ma è di plastica o metallo? È metallo. C'ha solo, in pratica c'ha la, come si chiama, il piede dove basa per terra, dove ci sono i tacchetti, i piedini, solo quello c'è in pratica, però quello si può smontare dalla cassa in metallo. Ho capito. Beh, perché non si vede, c'era una cosa, c'è il capino di mosca, poi l'ha dato la cosa, andavo di ossi. Un Midland single cacciare base, c'è anche la banda laterale, se non mi ricordo male, quello c'è un altro, anzi c'è tuttora. Ehi, capo, sì, mi sembra che ce l'aveva lui uno di questo, l'aveva detto un giorno che l'hanno durato con me. Capo, comunque, il primo già è, se arrivi subito, basta che, guardi dove c'è quel trasformatore grande, poi c'è l'integrato con la pettina, quello è l'integrato audio, quindi ci dovete arrivare subito, basta che provi con cacciavite, ti metti un paio di cuffie, un apparecchio acceso e fai la prova, scegliati con un puntino l'attacco originale, però mi hai capito, del trimmer, lì l'ho stampato, così almeno nel caso è sbagliato il trimmer, lo riporti nel verso giusto come la prima. Sì, quello già lo so, per non sbagliare quello che è vero, un puntino da dove parti. Esatto, sì, ma ti accorgi subito con l'apparecchio acceso e con le cuffie, perché ti accorgi subito che la modulazione cambia, capito? Perché esci più forte di radio. Io in tutti gli apparecchi che ho, tranne quell'altro, quello professionale, io ho toccato l'LC di tutti quanti. Infatti escono ben forte, capito? E quando ritiro la macchina adesso, qualche sera salgo e ti porto il colle, ti porto. E vedi un po'. Voglio solo registrati i trimmer. Sì, già c'è il Connex uguale. Voglio il Connex, credo. In dovuto applicare, devo fare l'LC e la potenza da calare, che poi aspetta, se trovo il cone servizio qua, mi sorride quasi sul verso, adesso lo so controllare, non c'è vuota. Allora, potenza M, aspetta, ti dico 41, così te lo dico io adesso, se ti metti il connex in mano, se te lo colleghi te lo faccio fare la taratura. No, oh, ok, lo devo cliccare. Ok, allora. Allora, potenza Trim VR13. Invece l'LC e l'LC, dunque l'LC è il volume 12 e l'LC è il volume 14. Sì, aspetta, però sapete, nessuno me lo offro. Però io poi ti dico come fare. Che faccio? Chi mi chiama? Sparito. No, è Michele che ha chiamato, ha bussato. Guardate Michele. Ehi, a Michele. Cazzo, ce ne sono un bel, ce ne sono. Ah, quello, guarda vicino allo chassis. C'è quella piastrina verticale, vicino alla c'è cacciata a piede, ce l'ho presente. Sotto ci sono due resistenze. Una è colore rosso, nero, marrone, e l'altro è la stessa identica cosa. Rosso, nero, marrone. Accanto a quelle due resistenze ci sono due trimmer. Uno c'è scritto M più WR, che è proprio frontale al condensatore, quello grande. Quella è la potenza. Quello che hai detto tu è VR14. Esatto. No, VR13. La potenza è VR13. L'MC è invece VR14. Cioè l'MC e l'MC è VR12. Quindi devi toccare tutti e due dopo. Adesso prima fai la potenza. Il VR13. Ehi, ma vuole fatto a radio accesa questo, vuole fatto, il microfono. Che ne dispiace, il microfono è con la radio accesa naturalmente. Il film te lo accoggi subito lo smitter, che te lo vedi salire. Faccia stare a sole che non so cosa adesso. E gli devo preparare un microfono, gli devo preparare. E niente. E come mi arriva la macchina già salgo da te, dai, in un giorno. Ah vabbè, come vuoi tu, non c'è problema, se no te l'avresti fatto tu. Dicevo di napoletano, insomma. Io ho interpretato un coso, un tipo fra. Gli hanno messo una blettivista a questo poveraccio, è entrato nei canali brasiliani, come sono entrato io, immediatamente ci hanno mandato a qualcuno. Basta quando entrano qua, mandare da qualcuno e mettere in blettivista lo stesso. E infatti, poveraccio, l'hanno messo in blettivista, sono entrato, stavo facendo il controllo, e tu stai scendo bene, non ti preoccupare, tanto male che c'è questo discreto, e ci sono entrato, dice, a parlare con questi brasiliani, mi hanno risposto male, e mi hanno messo questa specie di cosa, mi hanno mandato, mi ha detto, e è arrivato, è successo anche a me, non preoccupate, ho detto, mandare a qualcuno, e ho detto, non entrarci, e lì gli ho detto la nazione è brasiliana e ti metti tutte le altre che vuoi, ho detto. Gli altri già non ti fanno, già non ti dicono niente. Solo i brasiliani sono così imbecilli. Non ti credere, no. Tra lei, ieri, o quanti ieri, stavo ascoltando nel 15, nei gruppi, nel canale 15, c'era uno, cioè non uno, più di uno che stava lamentando con i tedeschi che gli hanno risposto male, gli hanno buttato fuori dalla canaletta in poche parole. Ah, quindi anche in Germania sono così, cazzo, ognuno rimane dove è, allora che scopo c'è avere questa cosa? Se ognuno parla per i fatti suoi, è meglio non usarla, allora quella è la storia. Basta eliminarla e va a qualcuno. E si usa il barattino normale. Cazzo. Un bel di gente si sta lamentando, Antone, per quel fatto lì. Vabbè, io non ci sto entrando, sulla biglia di luci. Anzi, l'abbiamo cancellata, poi ho preso, l'ho rimessa, però sto ascoltando. Non sto entrando, non ci sto entrando più in quel posto lì. Non mi piace il burro, dai, è meglio qua. Avanti, ok, chiaro. Ah, adesso non è il rimorchio, adesso fai più veloce. Chiaro. E vabbè, limite velocità c'è per quello. Non cambia, però sei più leggero, più tranquillo, non rallenti niente. Di quella frequenza che ci si hanno messo la Midland nel telefonino. E fai bene, intanto c'è solo che troppa gente permalosa, basta una parolina così, anche se la dici scherzando, e ti si girano tutti contro. E infatti io ce l'ho, l'ho accesa, però non entro neanche, perché stanno sempre a bisticciare. Alla sega, un periodo che l'ho fatto. Hanno detto che era morto un camionista, era morto in incidente stradale, non so dove, nel Brennero mi sembra che era, non mi ricordo dove era. Hanno fatto la colletta e questo qua si è portato via più di 5.000 euro e poi non si è sentito più. Vabbè. Magari di scherzo quello lì. Non era male lo scherzo, ma perché ci ha incassato i soldi. Allora te torni. Non è, l'antenna te ne è caduta. È probabile. Non sta parlando nell'altro coso. No, non c'è. Non c'è, l'altro è muto. Sì, qua dove vuoi stare, sempre da M. Ascoltare, sì, posso andare, vabbè, io ho questo grande, posso ascoltare anche i radiamaturi, però solo che adesso i radiamaturi da quelle frequenze stanno sparendo, perché stanno andando tutto in digitale, e alla fine uno grande così non vale a niente. Sì, no, già è bello, i radiamaturi, diciamo che almeno parlano le cose serie, parlano le antenne, queste cose qua, finali e via, e si impara anche qualcosa, non solo l'altro. È interessante, solo che adesso se ne stanno andando anche loro. Aspetta, vengo subito, 2 minuti. Sì, è vero quello, ma non solo radiatori, anche certi di noi che moduliamo qua la sera, ci sono quelli che leggono, ti dicono a toglierlo, perché magari ce l'hai come adesso, c'hai una puntina, ne hai, e basta, ed è, va bene. Infatti, una volta che lo richiami, come stai modulando tu, va benissimo, anzi, non sembra, se uno non ci mette tutto l'orecchio non si sente neanche che ce l'hai. Stai facendo la cambiabile? Perché ti sto perdendo. Basta che tu me lo dici e non mi perdi più. Ah, ecco. Infatti sì, tutto è sceso, ma è per quello che ti ho detto, nella camionabile sì, perché quella zona è un po' negativa. Non è positivo, ho già passato la strada per Olghero, adesso sono nel Salitone e poi faccio giù il Canniga. Tra poco ci sei sulla 131 là. Ma è positivo. Ma te? No, non è rientrato, pensavo che era lui che ha schiacciato. Quanto ci metti adesso per arrivare a Cagliari? Un paio d'ore? 2:30, 3, però mi devo fermare verso Oristano a fare la pausa, perché non l'ho fatto neanche qui a Porto Torres, se mi tocca fermarmi. Ah, certo, tocca fare la zona Oristano. Sì, da lì già sei vicino. Da lì un'oretta e sono a casa. Sì, certo. Oristano ha fatto il più, e gli manca solo il meno. Ah, Franco, buonasera. Ehi, ciao Tino, ascolti l'amico di Cagliari, Michele, che sta rientrando. Ciao, positivo, ciao Michele, c'è anche Antonello, come sbaglio, con Puma. la buona serata, giusto a provare la radio. Ciao Tino, buonasera 73, Michele da Questa. Ciao Michele, ben ascoltato, ascolti bene la tua zona, dove sei? Arrivando Bivio Canica nella camionabile, nel fosso. Ah, ho capito, va bene. Se ne ascolti ancora lì allora. Sì, sì, non ci stanno problemi. Va bene, fra, ti rilascio domani, ti dai. Buon questo, che sto facendo qualcosa qua oggi. Cambio vasca, diciamo. Ciao Tino, la più bassa è questa, però perfetta, pulita. Cosa vuoi, tutto normale, niente di dirottato. Va bene, ciao Tino, allora stai chiudendo, vai, buon proseguo. Ciao Tino, buona serata, Michele ti saluta. Ciao, Michele, buon rientro, buon tutto. No, sono in corretta, dai, sto facendo dei controlli qua, quindi. Salutami a Pompugno, ciao. Sì, ciao, quando rientra ci sentiamo. Avanti Michele. Positivo, un attimo che mi squilla, un attimino. Vai. Eccoci di nuovo, Franco. Cappa, lei mi ha allontanato un attimino. Positivo, adesso sta squillando ma non lo rispondo più, vaffanculo. Ci impara. Bivio Viale Italia 131. Via 131. Tra poco ti fai le gallerie, ti fai. E via. Mi hai una serata bella, non fa né piove, non è niente. Positivo. Non ci sono neanche più i pastori in mezzo alla strada, così si viaggia meglio. Si sono ritirati, non ci sono più. No, mi hanno fermato prima i carabinieri lì a Borore, che c'erano i pastori, di passare lì da Torralba, quella zona lì, fare costruine, Però sono passato dritto e non c'è niente. Ho visto che erano di manifestazione a Nuoro, mi sembra, stamattina. Io sono lui stanere, quindi non ho visto più niente. Vabbè, c'hanno ragione anche loro, non è che non hanno ragione, anzi più che ragione. Sì, ma adesso dalla ragione mi sa che stanno passando al torto. Vogliono insistere per quel motivo lì, per vedere se riescono a ottenere qualcosa, però mi sembra che la cosa sia brutta. Uno insistere per la ragione e uno fare cazzate per la ragione, è diverso. Stanno facendo qualche cazzatina che non dovrebbero fare, anche se sono mossa. Bianco un attimo che sto entrando in galleria. Non ascolti più Michele. Attenzione Michele, sei uscito dalla galleria? Attenzione Michele, ti ascolti. Hola. Attenzione Michele, canale 10. Caffa Michele, non ti sento più, Ce la riascoltiamo. Ciao Michele, buon rientro. Caffa, ciao, ce la riascoltiamo. Se lo saluterò senz'altro. Ciao, buon rientro. Antonello? ciao Giulio. Ciao Fra. Aspetta che mi si seguo. Qui siamo bene qua. Ciao, non c'è nessuno, dov'è? La gira di solo, tutta la gira, ho appellato un po' a Antonello, quindi un camionista di Cagliari, e abbiamo accompagnato un bel pezzo, andata e ritorno. Sì, ciao, io stavo facendo cosa, e mi sono liberato da poco, pochi minuti fa. Ecco, voglio iniziare a girare io adesso, tutta la sera, e tu vabbè, no? Vai andare. Provando, facendo un microfono e qualche tabletto per provare quell'altro, quella radio, però c'è basta, con l'MB4 c'è basta. Oh, sì, non è adatto, ma il microfono già funziona bene, sì, non è che il microfono non è, perché mi sembra strano, perché il MB4 al Midland dovrebbe adattarsi bene. Non so, probabilmente ho la batteria che è un po', perché c'è delle batterie che c'è un altro microfono, invece quel primario esce bene, esce tutto un po' più bene, però poi ha aumentato sicuramente l'LC. Probabile quello allora, perché mi sembra strano perché l'MB4 si adatta benissimo, non solo a quello. Addirittura va bene anche per l'HS, pensa un po'. Lo so. Io a questo gli avevo fatto anche la modifica, gli avevo fatto, solo che non mi ricordo se l'avevo staccata o lasciata. Ah, ho capito. Sì, ho capito. Non so, già come si fa la modifica, già non so come si fa. Si devono mettere dirette due resistenze che ci sono, si mettono dirette, si fa ponte, si fa. Si possono anche lasciare attaccate, però si fa un ponte, così praticamente le resistenze risultano nulle. E esce molto più forte come modulazione. Sì, già lo credo, esce più forte. Adesso lo controllo, da vedere se ci sono, agganciate le due resistenze, se le avevo fatte, ma tanto tempo le avevo fatte, io non me lo ricordo, se ne avevo staccato uno oppure se sono tutte e due attaccate. No, ma le resistenze si possono lasciare attaccate, solo che si fa un ponticello, da un capo a basso della resistenza terza, si mette un filo, si mette, no? Si può lasciare attaccata la resistenza, non è un problema. Praticamente se fai un filo è come che le resistenze non ci sono, capito? No, le resistenze non le ho mica toccate, gli ho fatto il ponticello e basta. Il ponticello, due sono, due resistenze. E va molto meglio, così perlomeno si è sempre detto, poi non lo so, comunque dovrebbe andare bene, ce l'hanno fatto. Io già lo so, avevo anche la fotografia, lo schema, adesso non mi ricordo dove l'ho messo, forse ce l'ho nel computer, l'avevo salvato anche, mi sa, ricordo bene, oppure nel telefonino, boh, non me lo ricordo, la verità. Sì, te l'ho detto. C'è arrivato quei due, il ponte, uno è attaccato e l'altro è attaccato, il ponte. L'avevo attaccato io, perché dice che era troppo forte, l'avevo detto, però adesso glielo riattacco. Prova, perché so che vanno fatte tutti e due, sono due resistenze, uno vicino all'altro, tutti e due vicine sono, no? E dunque ci va il ponte per tutti e due. Sì, adesso ti faccio la foto. Dovrei avere anche io da qualche parte, l'ho salvata, adesso non mi ricordo se l'ho salvata nel telefonino, nell'altro, non nello smartphone, nel telefonino l'altro, quello normale, oppure nel computer, o tutti e due addirittura, non me lo ricordo. Cazzo, è venuto, te la finisco. Sì, vabbè, felicissima, dai, già. No, sicuramente, ma se dici tanto, va bene, lo stesso, non ci sono problemi, andate meglio. È già arrivata fra. Sì. Ci vuole molto arrivare. È meglio del telefono. Sì, certo. Adesso la guardo, un attimino che la guardo. Guarda, è già intanto io salto questo ponticello. Va bene, dai, salta intanto, dai. Tu vai avanti? Ciao Marco, Giulio, da questa parte, mi sono insieme a Franco di Sorso, che sta facendo una saldatura ad un microfono, ma rientra subito. Avanti Marco. Ho capito, anche tu ti hai preso l'influenza. Vabbè, ormai adesso è già passata comunque, no? Ma meglio così. Sì, ero tutta la sera qua, indaffarato con la stufa a pellet, che si era bloccato la vite senza fine e non scendeva il pellet. E cos'era? E, siccome svuoto sempre con la busta direttamente, no? E si era, senza accorgermi, è rimasto un pezzo di plastica dentro e a un certo momento si era, avevo rotolato lo scarico del pellet. E dunque ho dovuto fare un lavoro del diavolo, perché ho dovuto smontare tutta, ma già che c'era, ho fatto una revisione direttamente tutta totale. Va bene Marco, riprendi. Marco, l'avevo sostituito io nella mantova turbo, adesso però non sto usando la mantova turbo, l'avevo smontata e sto usando un dipolo in verticale, sto usando, tipo canale a pesca, là. E dunque, quel lavoro lì l'avevo fatto io tempo fa, l'avevo comprato da Fusaro, infatti a vite nel piattello che c'è, quel lamierino, si avvitta, sì, io lo volevo col doppio dado, da una parte all'altra, invece non ce l'avevo, me l'ha dato di quando avvitare, e va bene, anche originale così addirittura. A me si è dato il contatto centrale, cioè il foro caldo praticamente di quel PL da pannello. Però un altro problema che era verificato, sempre una mantova a tubo, ha una bobina, no? All'interno della calotta c'è una bobina che è per cortocircuitare l'antenna, no? E questa bobina è fissata in un incavo che c'è nel tubo praticamente, che poi va attaccata al palo, che praticamente è il piano di massa, no? E lì, siccome è ribattuto, la porta di muovere il vento, lo stilo centrale sollecita anche quello e dunque lo perde il contatto, ed ecco che l'antenna non era più cortocircuitata, però funzionava magnificamente bene, agli effetti della trasmissione e della ricezione era eccezionale. Però un altro problema c'era ancora, che poi io non lo sopportavo, siccome l'avevo installata nel muro proprio corrispondente a dove ho il letto, dove dormo, no? Però, e i radiali, quando c'era vento, mamma mia che fischi che facevano, e mi svegliavano alle 2, alle 3 del mattino. Allora l'ho tirata giù e ho costruito questa canna da pesca in verticale, tipo Game Master. vista da fino da volgimento motore, per essere chiari, dai. Cioè una bobina nel vero senso della parola, perché è isolata, capito? È un filo isolato, ecco perché è brunito. Dunque non è un semplice filo, è una bobina che grossa sarà, non lo so, forse 1,5 mm all'incirca, 1,5 mm di diametro sarà. Ed è di quel metallo, cioè di quel rame isolato, no? Che serve anche per fare gli avvolgimenti di motore, eccetera. La Mantova Turbo, io non amo la Mantova 1, tantomeno la Mantova 5, ma suppongo che siano uguali, sì. Dopo c'è un filo, proprio filo elettrico, che si congiunge per dare il contatto a quel mollone che c'ha l'antenna, no? Quello che serve per le stazionarie, che va messo più o meno 5 cm dalla calotta, va messo. Se ci sono stazionarie, poi uno se lo regola più in alto, più in basso, secondo. Sì, dopo dalla bobina, sì, certo, all'interno c'è, diciamo che la bobina in pratica è installata su un tubo di vetroresina, è installata, no? Allo stesso tempo questa vetroresina è nel tubo di alluminio, che è il tubo che poi va attaccato al palo praticamente per il sostegno. E questa bobina, nel palo c'è un incavo in verticale, sempre in verticale, dello spessore più o meno del cavo. Il cavo, un pezzettino del cavo, sarà 1,5 cm che entra lì dentro, ed è ribattuto con un cacciavite, tre taglia praticamente, ribattuto con un cacciavite, in modo che schiacciando l'alluminio va a fare contatto con questa bobina. Dall'altro capo di questa bobina c'è un foro nel tubo in vetroresina, che lì si mette il bullone, c'è il bullone praticamente, che fa contatto, che poi va a collegarsi con un pezzetto di filo al dado che c'è all'esterno, dove ci va attaccata la molla, chiamiamola così, quella specie di discone che c'è per le stazionarie, già mi hai capito. Thank you. ripeto, scusa un attimo Franco, siccome io ci avevo contato la moto a tubo per il motivo per cui ti avevo detto, per questo divento dell'inverno, sai, quando soffia il vento è un tormento questi radiali che fischiano, però se proprio ti necessita vederla smontata, io cosa posso fare? Faccio le foto e poi te le posso mandare su WhatsApp, te le posso mandare, Marco, se ti interessa. Poi per quanto riguarda la calotta, ci sono sì i rivetti come hai detto tu, però io pure i rivetti non li ho messi più, ci ho messo un pezzo di barra filettata che fa da parte a parte con due dadi, i due dadi naturalmente in ottone oppure in acciaio inossidabile, in modo che un domani se devi smontare si svitano facilmente, perché poi a rimettere i rivetti non mi piaceva, la verità, a rimettere i rivetti non ero convinto. Allora ho fatto passante nella carrozza questo pezzo di barra filettata con dado da una parte e dado dall'altro, o al limite puoi mettere un bullone di un certo lunghezza, tutti in acciaio inossidabile e il dado lo metti solo da una parte. Mi sono spiegato, Marco? Dai, poi lo fai entrare tu a Franco da Porto, da Sorso. Avanti Marco. Problema con questo. Il Procel? Ho capito. No, no, questo va bene, va bene. Quell'altro però avrebbe un po' di amplificazione di più, eh. L'amplificazione di quell'altro era un pochino più alta. Adesso non so il livello di questo come l'hai messo, però va bene, la radio è pulitissima. È lo stesso, non ho aumentato, come il volume di radio non ho aumentato, è sempre uguale. Però è bella, è pulita, è bella, non è stancante, è piacevole, insomma, è proprio una radio proprio adatta per fare un lungo QSO. Sì, ma è un'inerzia solamente, niente di più, capito? Poi poco. Poi per metterlo più alto, vediamo un po', forse che magari, non so se dipende dalla batteria che scarica, comunque non ha aumentato molto. Sì, qualcosina in più c'è stata, però niente di più. No, guarda che l'eco c'era, per l'ultimo passaggio che ha fatto, prima di questo c'era l'eco, vedete c'è un po' di disossidante nel potenziometro dell'eco, magari sarà per quello, forse sarà un po' ossidato e non fa contatto, sai, quando lo lascia tanto tempo fermi questi microfoni che fanno con lo scherzetto lì. Va bene, adesso dentro c'era l'eco, adesso c'era, ripetitivo abbastanza. Questo non mi sentisce mai. Questo è una bomba, questo è fortissimo. Va benissimo questo, è veramente bello. Io credo. È l'unica che non mi lascia mai a piedi. Già lo credo. Anche perché adesso anche con la bicicletta si muove il casco. Ho sentito la nuova legge della motorizzazione che faranno. Anche con la bicicletta devi portare il casco. E può entrare anche contro mano nelle strade dove c'è la massima velocità di 30. Per cui stanno rivoluzionando tutto, anche la circolazione stradale. No, stanno facendo ridere in Italia e tutta l'Europa sta facendo ridere questa gente. Tra poco ci vogliono usare anche a piedi. No, ma in certi posti c'è già questa legge qua, ad esempio in Germania, anche in Gran Bretagna credo che sia già, anche per lo skateboard, quella specie di monopattino non senza niente da parare, che io poi non ho mai usato e non lo so certamente usare. Anche per quello, ci sono le regole anche per quello. Ce n'è, questa volta siamo proprio rivoluzionari. E lasciamo fare. A parte che a quando sono svegliati loro, se tu vedi i ciclisti, tutti quanti c'hanno tutto il casco, perché è una loro protezione se cadono. Lo so, ma per dire, no, io non capisco come possa essere, perché puoi entrare contro mano in una strada, ad esempio, dove c'è il divieto di accesso, con la bicicletta puoi entrare, però deve essere una strada dove c'è il limite massimo per le macchine e per le moto di 30 km l'ora, perché se no non puoi circolare con la bicicletta contro mano. Poi si possono usare, ad esempio, le parti dove può passare la polizia, dove passano i pompieri, le strade riservate a questi mesi qua, no, eccetera eccetera, capito? Alle ambulanze eccetera, puoi passare anche lì, non lo so come si può camminare, ma intanto io non ci devo camminare bicicletta. Comunque se tu vai all'autoscuola, guardi le biciclette, ti fanno cose delle biciclette ed è un veicolo a pedali, ma è sempre un veicolo, perciò è sempre una cosa che è potente anche far danno, perché se tu vai a 30 km orari, la macchina va a 30 km orari, prendi una bicicletta, non gli fa male. Se tu investi una persona, ad esempio, sul passaggio pedonale con una bicicletta a 30 km orari, la puoi ammazzare, non è poco, capita. Ah, poi c'è un altro particolare, al semaforo, dove quando c'è il rosso, le biciclette avranno la precedenza, perché si devono fermare davanti alla macchina addirittura. Si può immaginare che data di invenzione che stanno facendo. Non è possibile. E hanno la precedenza, le bici, capito? Lascia di fare. Tra qualche anno abbiamo le macchine che volano. Adesso fanno molto, se uno va a cavallo, anche per il cavallo, se mettono la targa. Ma il cavallo si lascia la muta per terra però. Non è possibile. Ma dico, oh, una volta, io mi ricordo, quando mio padre era ragazzo, per la bicicletta si pagava una tassa, una specie di bollo si pagava. E questo me l'aveva raccontato mio padre, quando lui era ragazzo, giovanotto, si pagava una tassa per la bicicletta. Poi naturalmente con passare del tempo l'hanno tolta e non se ne è più parlato. Se adesso torniamo a quello, magari metto anche la targa. Ecco, non ho mai conosciuto una cosa del genere, tasso della bicicletta mai conosciuto, ma motorino sì, che è stato sempre il bollo. Noi sì, noi nella nostra generazione sì, ma nella generazione di mio padre me l'aveva raccontato, quando era ragazzino lui, con la bicicletta c'era una tassa, si pagava una tassa per poter andare in bicicletta, magari erano stupidaggi. Per quello, anche per il metro, tanto per fare un esempio, il metro di falegname, non so se l'hanno tolta quella legge, però c'era una legge che per il metro, intanto dovevi avere il metro col bollino, dovevi avere, e poi si pagava la tassa al comune, questo me lo ricordo benissimo anch'io. E perché si pagava il metro, si pagava la tassa per il metro? Perché il metro doveva essere di quelli bollati originale, in modo che uno non facesse camorra, non poteva fare camorra con le misure, capisci? E sarà per quello, che ne so, era una tassa stupida. E se sapessi quante tasse ci sono, guarda che noi abbiamo in Italia roba di 130 tasse, solo che non le conosciamo nemmeno. E ne dico un'altra, ad esempio. In una città, che adesso non mi ricordo qual è, qui in Italia, si paga la tassa per la copertura del tetto. Tu hai, per dire, una casa da 100 metri quadrati, un tetto da 100 metri quadrati, paghi la tassa per quel tetto, per dire, no, non in tutta Italia, no, solo in quella città. Il comune aveva messo questa tassa. Poi c'è un'altra più curiosa ancora. Tu lo sai che paghiamo la tassa per il rumore dell'aeroplano che vola sui nostri cieli? Si paga una tassa, solo che la gente non le sa nemmeno queste cose, ma io le avevo sentite addirittura che in una tribuna politica di tanti anni fa. Mai sentita. Vabbè, la pagheremo, perché ne paghiamo tante di tasse che noi non sappiamo neanche cosa stiamo pagando, però le paghiamo perché si mettono loro, siamo come gli asini. E quello dice devi pagare e noi paghiamo subito. E appunto, per dirti, noi tante cose non paghiamo, ma non riconosciamo nemmeno certe cose. In Italia ci sono in tutto roba di 130 tasse. Noi cosa conosciamo? Noi conosciamo solo quelle più recenti che ci fanno magari la deduzione dei redditi, la l'IVA, la tassa sulla casa, la tassa mondesa, la tassa sul telefono, perché c'è sempre la tassa, no? La tassa sulla bolletta della luce, tutte queste cose qua, no? Sono sempre tasse. Ecco, in tutte sommate, in Italia ci sono 130 tasse. Che noi tutte non le conosciamo, no? Infatti non le conosce nemmeno chi le ha approvate queste tasse. Buonasera. Buonasera, avanti. Ciao Giulio, ciao anche Franco. C'è la tassa anche, Giulio, ti sei dedicato anche sulle bilance. Sulla bilancia c'è la tassa, lo stesso. Io per il metro e sulla bilancia andavo a via Mancini, c'era un ufficio specifico, me lo controllava e mi dava un copertino sulla cosa della bilancia. Avanti Giulio. Certo, ciao Marino, ben entrato. Sì, anche quello, ce ne sono le tasse. E sempre quello, c'è la tassa sul registratore di cassa, e quante cose, c'è la tassa sui frigoriferi, e c'è la tassa sulle insegne. c'era la tassa sui fari luminosi che tu, oltre che facevi un favore al comune che illuminavi la città la sera, no, quando ho incominciato a fare il buio, tutti i negozi, tutte le attività avevano la luce fuori in strada, c'era la tassa anche per quello. Oltre al consumo, Franco, oltre al consumo dell'energia elettrica, tu comune ti prendi a pagare la tassa, cosa dell'altro mondo, capo? Ecco, quello è cosa dell'altro mondo veramente. Ciao Marino, buonasera, ben ascoltato. Sì, quello perché le insegne sono luminose, è ovvio che fanno fare le tasse, ma anche non luminose te la fanno pagare, perché è un'insegna, tu vedi, ti metti allo sportello della macchina e tu decidi di scrivere il tuo nome, il tuo come si dice, come tutto Giulio, che è falegname, che è falegnameria, lì e là, si scrive quello lì nello sportello per pagare la tassa, perché sennò è di multa. Adesso dico una cazzata, i locali che piottano gli ombrelloni, se c'è per caso il nome o cognome sul ombrellone, deve pagare la tassa. Avanti, senza nome oppure ti fanno pagare la tassa, avanti giù. Sì, ma certo, è tutto così. Ecco per quale motivo, te lo sto dicendo, qua ci sono 130 tasse proprio in Italia, proprio per questo, sommando tutte queste cose, no? Però noi qualcosa conosciamo, noi conosciamo le più a portata di mano, diciamo, o meglio a portata di tasca. Tassa compensa, la luce, la bolletta del telefono, la l'IMU, l'IREF, la TASI, tutte queste cose qua. Lui, guarda che c'è da prendere un mito, ragazzi, da andare da queste persone che hanno fatto certe tasse e parlare a vita, pagare d'aria. Non è possibile, ragazzi, quando vai uno deve pagare tutte queste tasse. Stiamo pagando ancora la tassa a una nazione, non mi ricordo che, da roba più di 50 anni, perché avevano fatto la guerra e noi gli stiamo dando l'aiuto da più di 50 anni, non mi ricordo quale nazione è, riprendi. Ma io avevo sentito l'America. No, non è America, non lo so, ma forse parliamo anche per loro, non lo so. È un'altra nazione, forse una nazione araba, non lo so, non me lo ricordo, la verità. Comunque ogni tanto di quello ne parlano, comunque, ne parlano ogni tanto di quella nazione che si prende l'aiuto dall'Italia, non è possibile. Pagare, non c'è nulla da fare giù. Noi paghiamo. Ma noi l'unica cosa è stata che sono stati un po' onesti e la tassa sul suo pubblico, che era il sindaco, diciamo, tutta la roba del comune, l'ha messa bassa, l'ha abbassata proprio al 100%, si fa una fesseria proprio, proprio perché i commercianti stavano lamentando le troppe tasse, allora ha preso e abbassato la tassa sul suo pubblico, per il momento. Magari fra poco inizia a fare tre volte il doppio, avanti fra. Sì, perché adesso tutte le attività, tutte bar, queste cose così, si stanno facendo soprattutto il chiosco all'esterno, sul marciapiede, proprio per quello motivo lì. Poi che hanno tutti fatti, hanno preso una barca di soldi, lo aumentano tutto quanto, lo aumentano, poi smontano tutto, chi spende. Esatto, tu scendi per esempio, oggi ti dico una via dove io tabacco, tu scendi in via Torofonda, ci sono per esempio 40 magazzini, su 39 sono tutti fra ristoranti, pizzeria e bar. Qui c'è un problema, tu passi solo al centro, c'è un passaggio al centro sul marciapiede, è tutto occupato da loro, proprio stanno occupando tutto quanto. Se passare una carrozzina o c'è qualche emergenza, qualche macchina o la ambulanza, non c'è spazio, non c'è di passare avanti giù. Sì, ma è così. Purtroppo ci sono queste tasse qua, lì chiedono il permesso, le danno l'autorizzazione, il comune incassa anche i soldi in cassa per quello. Perché uno se deve fare una lavoro, aspetta, devi fare il ponteggio, se devi fare un lavoro in facciata, devi fare del suolo pubblico, e costa un sacco di soldi, devi fare tutti, ma io lo so, perché l'ho fatto anche da poco, e se paga abbastanza, se paga, a metro quadrato, più occupi e più paghi. E così era il discorso anche delle insegne luminose, fra. C'erano quelle serie di insegne che ce l'avevano la parete, avevano la cifra, quelle a bandiera avevano un'altra cifra, a seconda anche della lunghezza della targa, tutte queste cose qua, e poco lo veniva, ui, schiaccia. E una volta si pagava anche il dazio, facevi un lavoro fra, per dire un mobile, e prima di consegnare dovevi fare la bolletta e pagare il dazio, dovevi andare lì, ho fatto per dire un comò, cosa pesa? Pesa 80 kg, e ti facevano pagare in base al peso, ti facevano pagare da casa, perché c'erano quegli ubriaconi di guardie del dazio in giro, e che erano sempre brutti, e erano sempre alla ricerca di gente che trasportava questi materiali, mentre invece non si pagava per le finestre e per le porte, non si pagava, ma per i mobili sì. E se non mi quadrava il fatto del peso, allora ti portavano anche a Santa Maria, ti facevano mettere sulla bilancia, ti facevano mettere, ti pesavano, e se il peso era sbagliato di mangiare burro a contravenzione, e loro erano sempre imbriachi, o fra. La roba che va, in Italia siamo da un bel cano, siamo, noi avanno. Avanti Mari. Sono in treno, ma sono una tangente, non sono neanche accorto, figo, io sono giù. Ok, ciao giù, ben sentito, al flusso, ciao fra. Sentito anche per il flusso. Ma guarda, fra, tu che hai fatto il solo. Ma fai più male tu, non so che stai utilizzando. Non ho capito allora. Sì, la radio è un po' impazzata. Ho detto per un'informazione, per il PMR, che antenne stai utilizzando tu? Tu sai? Ma una che si chiama Mondial, direi che si 200. Ah no, mi sembrava la LN 300. E ok, va, dove stavo a mancare, ma adesso la faccio da casa. Ciao fra, nuovamente, ciao Giulio, alla prossima, ti prendi Giulio e ci sentiamo, ciao. Ok, è andato. Ok, ciao Mai, grazie per essere andato a salutarci a me, dai, fatti sentire, noi siamo sempre qua su questo canale, però a volte ci puoi trovare anche sul 20, che è il canale delle radio vintage. Ok, avanti Antonello. Ehi, buonasera a tutti, sono ritrovato. Adesso, saluto lì, Marino, Franco, tutti quelli che ci sono, che non lo so neanche chi diavolo c'è, a parte del Giulio che ho sentito, e Marino, e Franco. Ciao Antonio, sono via, ci vediamo qua, ma avanti di fra. Ok, ciao Marino, ci aspettiamo le prossime linee. Ciao, buon proseguo. Avanti Giulio. Ok. Purtroppo è così. Oi. E una volta c'erano anche, adesso sta piccolata ancora più curiosa, una volta a Sassari, se quelli già li hai conosciuti, anche tu, c'erano i Vespasiani, c'erano i gabinetti salari, diciamo così, no? E c'erano quelli anche a pagamento, uno di questi era il biciclone del Babbi, entravi lì e dovevi pagare per andare a urinare ad esempio, e ti facevano pagare, non è che entravi gratis, io chiaro grillo. E così è, vabbè, però una volta che hanno incominciato a entrare i puzzolenti che focavano in una certa maniera, hanno chiuso quel coso lì, e non so se l'hanno poi chiuso del tutto, sotterrato, però si scendeva sottoterra praticamente, no? Si scendeva e c'erano i gabinetti lì, c'erano qua. Per fare la pipì si pagava. Sì, l'ho conosciuto così lì, quello delle biciclette l'ho conosciuto. L'hanno chiusi perché non hanno messo più gente, è ovvio, se non metti la gente lì a controllare, a pulire, è ovvio che vanno male, perché la gente entra e fischia da tutte le parti, per terra, fanno il bisogno di la notte i maleducati ci sono sempre in giro, poi specialmente il giardino di Sassari, che tanti anni fa quando ero ragazzo io erano sempre, la notte erano, c'era sempre gente, c'era quei giardini. Sì, beh certo, sì, ma è così. E ma lo stesso discorso adesso al mercato cibo qua a Sassari, che sono i gabinetti, sono anche discreti, come so, ma tu devi vedere per terra, io ci sono entrato qualche volta, è lì, ma per carità, tutto per terra fanno, ma quando mai, capita, uno deve essere così disgraziato, che è così maiale, boh, non è possibile qua, non è possibile. Devi avere i gambari, devi avere di gomma, Antonello, quando senti al mercato lì. Ah, non ci vado io lì, no? A me, in ambiente della stazione andavo una volta quando avevo fatto rubare, venivano già puliti, era verità, perché arrivavano a fare pulizia alle 2 e poi la sera verso le 8, quindi a prima decidevo, capito, se non le porte rimanevano chiuse, non ci potevano entrare nessuno, neanche a farsi la di droga, non so, perché erano controllati. Adesso non so se da quando ho chiuso il bar, se quei gabinetti sono aperti, se ci sono, se sono stati tutti sfondati, se ci sono portato via i lavelli, cosa ne so. Non lo so, Antonè, non lo so cosa, come sono adesso, non lo so, però per carità, via. E con tutto che lì al micicuale Babbi c'era anche il custode, c'era lì. E beh, naturalmente, perché quando entravi ti faceva pagare, ti faceva, vabbè, ti faceva pagare una miseria, ma intanto è sempre un paraggio vivi per dire, no? E nonostante tutto la gente era dei maiali, perché per carità, lui è inutile usare il putinoso, non c'è niente da fare, o perlomeno adesso io sto generalizzando chiaramente, poi è chiaro che ci sono anche le persone pulite, io sono un vigizio, Franco è un vigizio, Antonello è un vigizio per dire, no, di quelle persone corrette come si deve, ma ci sono quelli disgraziati o perché sono ubriachi o perché insomma fatto sta che fanno un macello nero, per carità, uno schifo, va, vai fra. Capo, comunque c'è Antonello, poco fa che sei, stasera te ne sei andato, te ne sei, ti stavo cercando, ti stavo, per salutarti, vabbè, là. Guarda, io avrei voluto fregato di quello che c'era lì dentro, che prendeva i soldi, che ti chiedeva i soldi. Avrei avuto il fegato, un giorno sono sceso e l'ho trovato mangiando il cipollino, gli ho detto, un fiago, ah caridai. Mamma mia, ma come si fa, da uno si mangia il pane lì. Oh vabbè, mi hanno mandato un video un giorno, che te lo potevo raccontare, però non si fa, perché intanto ancora non stiamo cenando. Allora, anche solamente questo video c'era, questo uomo nudo, completamente nudo, un tipo alto, magro, nudo, completamente nudo, ha preso uno di quelle sette biscottate gigantesche, grandi, proprio, sarà stato come minimo, sarà stato grande 25 cm per 25, una cosa così. L'ha presa, l'ha messa per terra, si è inchinato e l'ha fatta sopra questa biscottata, o pancarre che fosse, non lo so, comunque una di quelle pane, di quel pane a fette, così. Poi l'ha preso un'altra rifetta e gliel'ha messa sopra, ha tipo un panino con mortadella e ha cominciato a mangiarsela. Vabbè, quello stava riciclando. Ma per carità, non è possibile. Non mi ricordo che me l'avevo mandato, forse me l'avevo mandato Graziano, forse me l'avevo mandato quel video, non me lo ricordo. L'ho subito cancellato che faceva schifo. Ma attraverso. Adesso abbiamo il casino con Carlo Razzi, Giulio, che c'eravate, Claudio, questo casino qua. Ci stavo mettendo i cassonetti porta a porta, quindi dalle 10 a mezzanotte uno deve prendere i cassonetti, portarli fuori dal condominio, aspettare che passi la macchina, svuotarli e dopodiché li metterci l'uovo dentro. Non lo so come funziona lì, qui da noi ci hanno dato in dotazione, ci hanno dato i contenitori, il contenitore per l'umido, il contenitore per il secco, il contenitore per il vetro e il contenitore per la carta. E poi c'è un calendario, abbiamo un calendario che giornalmente dobbiamo mettere il bidone che loro poi passano a ritirarlo. Lo mettiamo una volta, lo mettiamo e lo ritiriamo di domani mattina, lo ritiriamo. Dunque, però se sbagli, stai tranquillo che c'era, e anche le buste per la plastica ci hanno dato, anche le buste per la plastica, per mettere le bottiglie di plastica, eccetera. Se sbagli però, ad esempio, se tu nell'umido ci metti anche il secco, oppure viceversa nel secco ci metti l'umido, ti mettono il bollino, ti mettono attaccato al bidoncino, ti mettono la prima volta, la seconda di base della contraversione. Lo sapevi che era così, Franco? No, non è così. Si fanno solo, tu non ti prendi una mandetta, se non hai... lo dica bene, non ti prendono una mandetta e te la lasciano lì, te la lasciano, tutto qua. Quando tu la metti in regolare, allora loro te la prendono. Sì, te lascia la mandetta perché non va bene così, perfetto. E ti mettono il bollino, che te l'hanno fatto qui ad una persona vicino a casa. Mettono il bollino sopra, la prima volta. Al massimo se trovi che è un pochino magnanimo questo qui, ti mette un secondo bollino. E stai tranquillo che la terza volta di base muove la contraddizione, perché in ogni contenitore c'è un tagliandino adesivo e c'è il numero. Questo numero risulta al nome mio, al nome degli altri e così via, capito? Dunque anche se volendo uno, se si prende il bidone mio, per dire, e se lo porta via, non lo può usare perché c'è questo tagliandino dove c'è il numero, che il numero non è il suo e corrisponde al numero mio, ad esempio, oppure al numero tuo o al numero di un altro, capito? Al nome, voglio dire, capito? Fa, è così, stai tranquillo, è quasi nella multa, 300 euro la donna ha pagato qui vicino, ti dico di più, sai chi gliel'ha fatta addirittura il fratello, perché il fratello lavora in quell'azienda lì. Ma se una cosa che ha fatto il sindaco quello lì, lascia perdere, che non è regolare, non è regolare, perché niente non ce ne devono essere, era lì, facciamo scherzare, perché la mandetta che pago e la differenziata gliela stiamo facendo perché ci dovevano fare anche lo sconto sulla mandetta, invece ci hanno aumentata e faccio anche quello, no, lascia perdere, non è così comunque. Vieni a denunciare chi ha fatto quella legge. Così è qui a Sassari o fra, stai tranquillo che è così a Sassari. Non si sfugge, no? Se ti trovano poi anche buttando la mandetta fuori orario, ad esempio a Sassari che ci sono ancora i cartoni, ci sono, se ti trovano buttando la mondezza fuori orario, la mondezza dovrebbe buttare dalla luna in poi, dall'una fino alla mezzanotte. Se ti trovano per dire anche 5 minuti prima dell'una, ti vede il coso, come si chiama, quelli che vanno in campagna a controllare, eccetera, eccetera. I baraccieri anche altre persone, anche loro, quelli dell'azienda, che ti vedono, anche addirittura ci sono in certi posti, anche le telecamere, e vengono direttamente a casa tua a fare la multa. E stai tranquillo, che a Sassari succede sempre, molto spesso, guarda. Avanti anche lei, a voi com'è? Allora, guarda, non lo so perché mi avete arrivato un foglio oggi, anzi no, oggi, ieri mi è scappata la visa, perché qui siamo in 5, siamo 5 in pratica portoni. Io non so la notte come si farà, cioè a prendere 5 cassonetti e tutti in una volta portarli fuori dal condominio perché c'è il tassello elettrico e poi riprovarci nuovo lento. A un certo punto come diavolo fai? O gli dai la chiave a questi entra o vento, o se no devi pagare qualcuno in modo che dalle 10 fino a mezzanotte rimanga lì come un imbecille, prende i tassoni che sono per dire da svuotare, aspetta loro fino a, dalle 10 a mezzanotte e poi torna loro a casa. No, il cassone tu lo devi mettere fuori dal cancello. Se tu abiti di un palazzo dove c'è il cancello per entrare, perché magari c'è un giardino, tu lo devi mettere fuori dal cancello, e sono quei bidoni grandi, che sono quelli condominiali, la gente prende e mette la moneta lì, tutto dentro a un unico bidone, e poi passa lo spazzino e li ritira da dentro col cassone, poi tu il cassone durante il giorno te lo riporti dentro, te lo riporti, ecco come funziona. E qui ci sono anche qui, nella zona dove sono io, ad esempio, dove ci sono le attività, dove ci sono i circoli, dove ci sono i negozi, c'è il cassone fuori, e loro quando lo lasciano fuori, e loro dovrebbero portarlo dentro, lo devono mettere fuori, solamente la notte lo devono mettere. E così anche nelle case dove ci sono i condomini di più persone, ci sono i cassoni con grandi, ci sono, e te lo metti dentro tu. E tu non puoi andare, ad esempio, con la moneta mia, io non posso andare nemmeno a metterla dentro il cassone di un altro condominio, mi sia ben chiaro. No, ognuno la deve mettere davanti a casa sua. E passano la mattina, dalle 4 in poi, passano a ritirare la moneta, tutte le notti immancabilmente. Ad esempio, stanotte c'è il secco qua, c'è da buttare il secco. Ieri cosa c'era? Ieri mi sembra che c'era la plastica, se ricordo bene. Sì, ieri c'era la plastica. Oggi c'è il secco. Oggi c'è l'umido, non secco, oggi è l'umido. E domani dovrebbe essere il secco, e dopodomani poi la plastica di nuovo. E ogni 15 giorni c'è il vetro, ogni 15 giorni. Avanti Franco. Comunque, io una cosa del genere non l'ho mai sentito da nessuna parte, perché qua sotto non succede quello, non ci sono niente che te la lasciano, al massimo te la lasciano e basta. Anche se la lasci, se ti succede 2, 3, 4, 10 volte, non succede niente, perché è impossibile che ti faccia una multa per genere. A poco torna, ci ho lavorato con la bombetta, perché quando non avevamo, era chiuso l'impianto nostro. La nostra società ci aveva preso la bombetta di Porto Torres e andavamo a lavorare alla bombetta e non succedeva queste cose. Da altre parti non è mai successo, e sappia io. Solo a Sassari, il sindaco vuole fare cassa e basta, solo cassa vuole fare. Non sono cassonetti grandi, cioè Giulio, non sono cassonetti grandi, sono quelli piccoli, so, hai capito? Quelli piccoli, uno, sono 5 ogni portone, figurati il casino che ci sarà, il discorso è questo, sono 5 cassonetti ogni portone, quelli piccoli, mi chiedete quelli che usano i baristi, così piccoli sono, perché ce l'ha messo la locandina con quelli lì, non con quelli grandi. Noi quelli grandi ce l'abbiamo, sono fuori del condominio, quindi li tolgono e ci mettono quelli piccoli a noi, capito? Come te c'era in culo prima. Il discorso è quello. Io voglio vedere chi è che ci va ogni notte a prendere tutti, siamo in 5, si chiama qua, 5 palazzine una cacciata all'altra, e prendi 5 cassonetti per lì di fuori, dalle 10, e poi a metà notte riportarci in un momento. Non lo so, io li lascio tutti fuori, se non se lo chiamano, fuori la caccia li lascio, a me non me la fa per nulla. Sì, c'è il cassone, il condominiale, se non ce li hai, cioè se un condominio non ce li ha, lo deve richiedere, il cassone grande, se no devi andare lì, devi andare, ti danno tutti i contenitori singoli per ogni famiglia, ma in genere nel condominio c'è un cassone unico, ecco, proprio come quello del banco, è quello che hanno, infatti è quello. La mondezza, tu devi mettere sempre a orario, non è che la metti ad esempio la mattina alle 8 o appena che hai fatto le pulizie la metti dentro quel cassone, no, se la bene in casa tua te la devi tenere per legge, e poi la butti all'una, dall'una a mezzanotte la devi buttare, perché se no c'è c'è la contravvenzione se si scoprono, capito Antonio? E qui funziona così qua, non è uno scherzo. E poi qua tu le vedi, le strade sono tutte belle pulite, no? Non ce ne sono mucchi di mondezza qua. Qua le strade sono belle pulite, veramente, nonostante che è una borgata. Quello sì, lo sappiamo. Però è giusto che sia anche così, perché prima c'erano i cassoni grandi, quelli industriali, li chiamiamo, no? La gente tante volte anziché mettere dentro il cassone la metteva per terra, e così non va bene, cosa che è ancora stata di città, e in certi posti ci sono ancora quei cassoni, ci sono, che addirittura dai paesi vicini a Sassari, tanta gente è stata multata perché ne ha portato la moneta dal paese per buttarla a Sassari, e l'hanno scoperto tramite le telecamere, perché ci sono le telecamere, perché arrivano con la macchina, la telecamera inquadra anche la targa della macchina e ti arriva la contravvenzione a casa direttamente, a tutti dimmi, questo comandante dei vigili è molto severo, e fa bene, per me fa bene, avanti Franco. Ehi capo, io riprendo, vi lascio perché mi hanno chiamato a mangiare, ci sentiamo, vai. Buon tutto, buon proseguo per voi e per fate buona cena. Ci sentiamo, ciao Giulio. Ci sentiamo domani, dai. Ok, fra, a domani, dai. Ciao, grazie per la chiacchieratina, dai, buona cena. E anch'io fra un po' scendo a cenare anch'io. Capito Antonello? Ok, ciao Antonello, scusa che non ti avevo salutato. Vabbè, Antonello si è allontanato dal microfono, vabbè. Ci sentiamo. Allora Antonello, se mi stai ascoltando ti saluto anch'io, dai. Ci sentiamo domani, ciao, chiudo anch'io. Sta rientro subito, non vedo più. No, sto chiudendo, Antonio, dai, è buona cenare, ciao, ci sentiamo, Franco ha chiuso lo stesso, ciao, ci sentiamo. Sì, allora, ciao a tutti e due, ci sentiamo domani, là, e adesso mi ha chiamato per quello della pizza e l'ho ritirata. Ci sentiamo domani, buonanotte, buon tutto, buona cena. Grazie, per tanto, Antonio, a domani, dai, ciao. Brecco. Ciao, ciao. Brecco. Avanti, chi è? Buonasera, dai, Pompu, a posto. Dimmi. Ho detto, l'ho sistemato. Non ho capito, vai. Ma non sta andando verso la radio. Sei basso, qui, Daniel. Ben basso, Santiago 5. Non sembra la mia tetto, ma non mi sembra un caminetto. Perché c'è rotta l'antenna, proprio, c'è una bufera che rimane uno zero. Quello, l'ultimo pezzo in alto, dai. Quindi adesso è su due pezzi, c'è il radialino e lo stelo, il primo. Sì, vabbè, quello già si rimediare, non ti preoccupare per la puma. Guarda che lo speaker funziona, me l'ho provato quello che ho io. Quindi, quando vuoi salire, non domani mattina, arrivi domani sera, così te lo piatto e sei a posto. Io ho giusto a termine invece, Pompù. Era inchiodato. Ho capito. Cosa, Antonè? Non ho capito cosa mi hai detto. Ho detto che il mio l'ho sistemato di smitter. Ah, se l'hai sistemato? Cava. Come te l'ho detto io, hai fatto, là. Con la vettina appena l'hai mollato. A meno che avevi tolto la questione dove si incastrava, vabbè, meglio così, là. Comunque c'è gli accendenti di riserva nel caso. Quello conserva, non si sa mai che questo non funga più. Già te lo do a te, non ti preoccupare, te lo metto a parte e te lo do a te. Aspetta un attimo che mi sta chiamando Simona, due minuti. Ehi, dai, vabbè, dai, io chiudo e ci sentiamo alle prossimine, dai. Ehi, dai, andiamo domani sera, dai. Ottimo, domani mattina. Quando rientro, stai bene, a dopo. A domani, potevo dire, a dopo. Ciao. Ehi, ciao, ciao. Ma chi c'era in ruota, avanti? Hanno tutti chiuso, figurati. Porta la bomba con me, tiro uno stivo di coso. E la sistemi, gli metti lo stivo come si deve. E aggancia a fiato e ce la via il culo. A me la sistemi un pochettino. Ma gliela cambio, Pompù. Che forse me ne stavo dando una di antenna, adesso vediamo. e così la camminata quella lì è già vecchia ormai. Va bene, dai, l'importante è ascoltarci, anche bassi bassi, e farsi sentire, dai. Va bene, Pompo, buona carica e buon tutto, alle prossime. Ehi, ciao, ciao, ci sentiamo domani, ciao. Ehi, ciao, Antonio.